Cosa c'è? Solo perché senti una percussione? Piantala con sti bonghi. Non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi. Ma deve fare pratica. Allora c'è questa donna che riceve dal suo amato, che evidentemente abita lontano, una bottiglia dove il suo amato ha soffiato dentro tutto il suo amore, masticando una gomma. E che poi lei la stappa e l'aria è così forte, così gelida, che le deforma la faccia. Bravo. Manco fosse nella galleria del vento. Sì, e il pappagallino rimane senza le piume. Senza piume. Ecco, e allora? È partita una denuncia da parte di molti genitori perché quello spot della gomma spaventa i loro bambini. Ma per il pappagallo che si spegne? No, ma per la donna che si deforma, ci sono le gengive, si vede tutta quella la gengiva, a parte che parla di cicche con lo spot, quindi le gengive vanno bene. Poi fa ridere, scusa. Fa ridere. A te fa ridere, però i bambini evidentemente si spaventano. Cosa ti devo dire? Vabbè, non sei un bambino. Ma non sono un bambino e non sono figlio di genitori che si... Cosa? Che ce si mettono lì a fare ste denunce. Ma che denunce? Vabbè, siamo in democrazia. Chiunque può prendere e scrivere una lettera denunciando qualcosa che non va e qualcuno deve starlo pure a sentire. Sì, ma non è per le immagini. È perché la gomma da masticare in questione c'ha un nome particolare. Capito? Cosa è il nome? Ma cosa c'entra il nome? Ma sì, perché sono tutte a doppio senso quelle pubblicità. La cica si chiama Air Action. Pronto? I'm Julian Assange. No, ho sbagliato numero. Pronto? Come? Ma no, ma c'è un equivoco, no? È il nome di una gomma. Air come aria e action come azione. E non urli. Pronto? Ma chi era? Era una mamma, ce l'aveva con noi perché diciamo le parolacce. Sì, sì, poi anche la mamma quando c'è l'erection. E vieni, vieni con me, help! E vieni, vieni con me, help! Adelaide, Adelaide, Adelaide, Adelaide. Bom, bom, show me the way, help! Show me the way, help! Adelaide, Adelaide, Adelaide, Adelaide. Bom, bom, bom, bom. Chiedo asilo. Allora, questo esperimento è di scienza, drago da scienza. Questo è cosa molto di importante. Questo cos'è? Lo dice science. Science. Science. Sì. Science, drago, la famosa rivista Science. Science, che allora, Bersani direbbe science. Però se deve dire sciopero dice sopero. Quindi dice? Sopero. Da sarpa. Comunque, drago, la rivista Science dice che i bambini piccoli ragionano come gli scienziati, uguale. Vabbè, allora io come mai da piccolo invece perché tu sei l'eccezione che conferma la regola sempre. Io come scienziato e non sei un bambino, quindi vabbè, adesso no però, crescendo si diventa man mano sempre meno scienziati e sempre più ignoranti, capito? Vabbè, ma io guarda che io già fin da piccolo non capivo niente di matematica in assoluto. Sì, ma non è una questione di matematica. Ah, no, io pensavo già scienziato matematica, ma non no, è la stessa cosa, ma no. I bambini, drago, come no? Ragionano come gli scienziati, nel senso che senza saperlo realizzano analisi statistiche come gli scienziati. Ma come analisi statistiche? Sì, fanno degli esperimenti come gli scienziati. Vabbè, quello sì, osservano i fenomeni che li circondano come gli scienziati. Vabbè, dai. E poi ascoltano i loro coetanei, imparando da loro. Come gli scienziati, anche loro. No? No, beh, in realtà gli scienziati, se potessero, si ammazzerebbero l'un l'altro. Ma sì, sono gelosi, sono tutti invidiosi. Perché devono prendere i soldi delle ricerche? Ma science non può dirlo, non può scrivere quindi, certe cose. Quindi deve dire che gli scienziati collaborano. Oh, va bene, sì. In ogni caso, cambia del tutto il modo in cui si guarda ai bambini. Dopo che Science sì, perché prima si pensava che i bambini intorno ai due anni fossero irrazionali, istintivi, anche un po' psichedelici. Lo diceva Rousseau. Lo un po' come gli animaletti, Rousseau. Cosa ne sai tu di Rousseau? Ma come ne sono drago, di Rousseau? C'erano cioè, dei bei dipinti. Ma sì, appunto. Adesso, vabbè, quindi, drago, quindi si crescendo, pensa che sono degli scienziati. Cambia tutto, no? Scienziati, bambini. Quindi crescendo, in pratica ci si rimbambisce, perché io non sono scienziato. Ecco. Se ero scienziato da piccolo, adesso sono come sono, se vuol dire eri, che... Drago, non lo so. Tu di sicuro ti rimbambisci e peggiori. Grazie. Cari adulti, tornate bambini, vabbè, altro che crescita, altro che infantilismo. Chiedo asilo, il contrario. Io lo dico da un bel po', drago. Dovete diventare adulti. Tornate bambini e diventerete scienziati. Come me. E ora, bambini, ricreazione. Allora, siamo pronti? È pronti? Io sono pronto, poi sono qua da solo. Ah, da solo? Siamo in due, ci sono anch'io. E beh, ma cosa facciamo i due? Qui eri scout, no? E qui come facciamo? Dobbiamo fare le cose da scout, bisogna essere in tanti, altri bambini ci saranno, no? Saranno in ritardo, arriveranno. E beh, Alberto, aspetta che poi vedi che diventeremo sempre di più. Però intanto siamo noi due. No, ma noi due non possiamo fare niente, ci vuole la... Primis deve formarsi la squadriglia, no? che è il primo, è lo stesso. Ho letto il manuale, eh? Bravo, bravo. Quindi qui la squadriglia siamo io e lei, tra l'altro noi due siamo due ruoli diversi. Quindi la squadriglia sono altri bambini, no? Vabbè, sono preoccupati che insomma in due si possono fare un sacco di belle cose da scout, preoccupati. No, da scout, come faccio? Da scout? Quindi tipo scalare gli alberi possiamo fare anche siamo in due, no? Sì, ma anche. Ma che poi andiamo a vedere sul torrente, no? Con la canoa. Andiamo in sì, canoa. Bellissimo, ma anche. E poi andiamo a caccia di scoiattoli, no? E lì bisogna essere in tanti, no? Perché è come la caccia alla volpe, no? Bisogna fare un casino, no? Tutti che urlano, urla. Che devi prendere lo scoiattolo. Poi alla fine lo si circonda, lo si trova. E per quello poi facciamo i panini, no? Bello, bellissimo, ma anche altre cose, Alberto. Pensaci bene che stai crescendo, lo puoi capire. Perché cose ci sono? Se pensate che fare lo scout è una cosa da sfigati. Sfigati? Si paga anche, quindi, cioè... Il vostro problema sta nel fatto che non siete mai venuti. Allora qui i primi sono gli altri. Io sono venuto qua in anticipo. Forse solamente le lupette sono un po' scarse di tette. Ma qui siamo i giardinetti. Ma devi vedere che leoni, la squadriglia dei meloni. Che meloni? La squadriglia non c'è, siamo lui, poi i meloni. Poi mi ha detto, sono Nicolò, il mago del falò. Ma il capo scout per andare sulla liana. Mi hai guardato con un gran rispetto, poi mi hai detto, vieni, te la do. No, impagano i miei, io arrivo qua già tutto spesato. La prima volta che lei me la diede, eravamo su un tripiede. La seconda è stata più d'azione ed è crollata anche la costruzione. Da da da da. La costruzione per il fortino, no? Per fare la tana. Poi mi hai detto andiamo a far la legna con la pioggia che ci bagna. No, io se piove c'ho anche la giustificazione, non posso mica fare poi tagliare la legna. Impiegare l'accetta era una bega e abbiamo optato per la sega. Come la sega? Ma qui gli utensili non erano previsti, c'ho il tepper. Allora qui c'è tutto, i calzoncini, le scarponcine da montagna, il cappellino. Qui utensili no, è la sega. Quindi questa storia della sega me la spiega o andiamo per avvocati? Vabbè, fu costretto anch'io a partecipare a questa cosa del venerdì, controvoglia. Si sente questa cosa? Sì, sembra che la controvoglia sia qualcosa che ti hanno infilato in gola, Drago. Sì, me l'hanno proprio infilata in gola. Dai, che è venerdì! Senti già. E cos'è questa? Abbiamo pure la brass band, no? Cos'è questa qui? Un steel drum? Ma che steel drum? Cos'è? Ma sta zitto. Com'è che si chiama questo suono? Ringrazio Laura Faggin e Pietro Lacorte. Grazie. Ringrazio Alberto Caserini. Ringrazio Salvatore Iorio e Niccolò Bodini. E niente, ringraziamo tutti quelli che ci scrivono. Scrivete ancora sulla pagina Facebook, mandate i vostri disegni, ne sono arrivati tantissimi, nemmeno uno. Sì, comunque mancano 77 giorni alla fine del mondo. Ma c'è il countdown ufficiale. Ah, è vero, facciamo partire il countdown ufficiale. 1, 2. Mancano 77 giorni alla fine del mondo.